Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera facciamo un viaggio in Germania, facciamo un viaggio a Berlino e lo facciamo insieme a Beda Romano. Buonasera Beda Romano. Buonasera. Beda Romano è giornalista, scrittore, è stato per molti anni corrispondente del Sole 24 Ore della Germania, oggi è ancora corrispondente del Sole 24 Ore, ma da Bruxelles, in pratica dall'Europa, da dove segue appunto tutti gli avvenimenti che riguardano questo nostro vecchio continente un po' malandato, ma comunque con grandi prospettive. Ma parliamo di Berlino, capitale della Germania, perché il libro di cui parliamo questa sera è stato scritto da Beda Romano e da suo padre, Sergio Romano. Sergio Romano è storico, saggista, editorialista del Corriere della Sera, già ambasciatore in molte parti, per ultimo a Mosca. Ecco, quindi Beda Romano e Sergio Romano hanno scritto questo libro dedicato alla capitale tedesca, alla nuova capitale tedesca dopo l'unificazione. Com'è nata, Beda Romano, l'idea di scrivere questo libro a quattro mani? L'idea è nata in realtà dall'editore, che è il Mulino, che ha deciso di riproporre questo binomio, perché questo non è il primo libro che facciamo insieme. È uscito qualche anno fa un altro libro, quella volta per Longanesi, sul rapporto tra Chiesa e Stato. In questo caso invece c'è stato il desiderio di fare una guida storica, artistica, politica, sociale di una città in cui nessuno dei due ha vissuto, ma naturalmente abbiamo vissuto tutte e due in Germania e quindi abbiamo avuto un rapporto con Berlino e con una certa consuetudine con questa città. Ecco, sembra quasi che c'è quasi un po' di rammarico il fatto che tu sia stato corrispondente dalla Germania ma non eri a Berlino. Ma devo dire che ho fatto il corrispondente dalla Germania per lungo tempo e non ero a Berlino, e evidentemente subivo un po' il fatto di non essere a Berlino, perché Berlino è certamente la grande città tedesca, non c'è dubbio. Rispetto alle altre città aveva un ruolo e ha tuttora un ruolo internazionale, una fama internazionale molto più importante di qualsiasi altra città tedesca. Questo è dovuto naturalmente al fatto che il paese è un paese federale, dove vi sono in realtà moltissime capitali, ma Berlino ha una storia a sé, perché è stata la capitale della Prussia, è stata la capitale della Repubblica di Weimar, ha visto l'ascesa di Hitler e poi naturalmente è stata la capitale divisa nel dopoguerra, e quindi rimane nella storia tedesca una città a sé rispetto alle altre città della Germania. Ecco, in una certa prospettiva potrebbe essere giudicata una doppia capitale, una capitale che è stata appunto divisa, ma che era capitale da una parte, poi era un simbolo in fondo per l'Occidente. Tutti ricordano appunto le visite e l'assedio che c'era stato a Berlino, che è stato poi vinto con il ponte aereo nel primo dopoguerra. Però tu parli di capitale dimezzata, anzi il primo capitolo della tua parte del libro è una città malamata. Come mai questa capitale dimezzata e questa capitale non amata, una capitale in fondo un po' sopportata? Allora, è dimezzata perché, come dicevo prima, la Germania è un paese federale e quindi altre città tedesche, Francoforte, Colonia, Monaco, Amburgo, hanno un proprio peso specifico. Berlino è una capitale politica certamente, ma non è una capitale economica. I centri economici della Germania sono altrove, a cominciare da Monaco e da Francoforte, ma anche Colonia e Amburgo sono dei centri economici importanti. Invece Berlino no, Berlino è una città relativamente povera, con un elevato tasso di disoccupazione a causa della caduta del muro, che ancora continua a pesare sul clima economico della città. E questo per spiegare perché è una capitale dimezzata. È una capitale malamata perché per molti versi è lontana rispetto al baricentro della Germania. È una capitale spostata a est rispetto alle altre grandi città del paese, è una capitale che molti tedeschi considerano sinonimo di Prussia, considerano sinonimo di militarismo, considerano sinonimo di dittatura, e quindi è una città che riflette fino a un certo punto le aspirazioni del tedesco. Mentre a Parigi il francese, nato in una città di provincia, aspirerà sempre a trasferirsi a Parigi, il tedesco nato in una città di provincia non necessariamente vorrà andare a vivere a Berlino. Ecco, infatti ricordi appunto nelle prime pagine del libro come Konrad Adenauer, il grande cancelliere dello sviluppo appunto della Germania del primo dopoguerra, a Konrad Adenauer Berlino non piaceva, l'anziano cancelliere, l'uomo che più di altri contribuì alla rinascita della Repubblica Federale dopo la Seconda Guerra Mondiale, provava nei confronti della città una malcelata avversione, se non un'esplicita diffidenza. Ecco, però Berlino adesso, dall'unificazione in poi, è anche una città che è cambiata moltissimo, è una città che si è rinnovata, una città che ha rimesso in piedi appunto anche la zona orientale. È la stessa città del passato, la Berlino di oggi, Beda Romano? No, Berlino ha questa capacità di cambiare regolarmente, di cambiare continuamente. Non è mai una città che rimane simile a se stessa. Se noi guardiamo a Berlino negli ultimi 150 anni, vediamo come ogni volta è cambiata a seconda del periodo storico. Berlino fu tra il 1850 e i primi anni del Novecento un'importantissima capitale internazionale e il centro economico della Germania. Noi non ce ne rendiamo conto oggi, ma società come Deutsche Bank, che ha sede a Francoforte, o come Siemens, che ha sede a Monaco, sono società che sono nate a Berlino alla fine dell'Ottocento. Poi successivamente la città è diventata il centro della Repubblica di Weimar, quindi una città negli anni 20 che era diventata una metropoli culturale a livello europeo. Successivamente è diventata la capitale del Reich. La cosa buffa è che Hitler stesso ha fatto di Berlino una grande capitale monumentale, ma lui stesso non amava Berlino, tanto che pur essendo stato per 12 anni cancelliere del Reich, rimase in tutto questo periodo legalmente residente a Monaco di Baviera. Come dire, abitava a Berlino, ne stava facendo una grande capitale mondiale, ma preferiva comunque avere le proprie radici in Baviera. E poi naturalmente è cambiata nuovamente nel periodo della Guerra Fredda e oggi stiamo assistendo a una rinascita della città che vuole tentare di tornare quella che era o cercare di essere qualcosa di nuovo, perché come dicevo prima Berlino cambia in continuazione. Oggi è una città estremamente giovane, è una città che è diventata, è un piccolo dettaglio ma interessante, è la città tedesca dei commerci di opere d'arte, per esempio. Non era così fino a pochissimo tempo fa, quindi è diventata a questo punto una grande capitale artistica. E c'è infatti anche nella tua parte del libro un capitolo dedicato al multiculturalismo religioso e un altro allo spirito libertario, cioè una città in cui ormai si incrociano le abitudini, le consuetudini, le stesse abitanti di Berlino non sono più quelli di una volta, non sono forse berlinesi come un tempo, ma c'è in questa città una capacità di accogliere e di mettere insieme anche esperienze diverse, in fondo più che una capitale un luogo d'incontro, possiamo definirlo così, Beda Romano? Sì, assolutamente, è una città dove è fortissimo il confronto multireligioso, perché evidentemente è una città protestante, fondamentalmente protestante, con una piccola quota minoritaria di cattolici, ma è una città che ha attirato nel corso del tempo molti ortodossi russi, ha attirato a un certo punto una foltissima comunità ebraica, naturalmente decimata durante la guerra, ma oggi è tornata in auge. Oggi ci sono circa 45.000 ebrei a Berlino, ve ne erano poche decine alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ed è naturalmente anche un centro musulmano, perché è forte la comunità di turchi, arrivati nel secondo dopoguerra, che fa di questa città una città, come dicevo prima, multireligiosa e anche multicomunità, nel senso che si va in giro e molto spesso, per esempio, si sente parlare russo, perché vi sono moltissimi russi che si sono spostati a Berlino. Sono spesso dei russi di origine tedesca. Germania e Russia, gli amici dei amici, è uno dei capitoli della parte che tuo padre ha scritto sulle passeggiate berlinesi, una parte in cui c'è un racconto storico appunto su questa Berlino capitale, con il ruolo che hanno avuto gli ebrei. Tre capitoli sono dedicati proprio agli ebrei e al nazismo, al nuovo antisemitismo, agli ebrei nella società tedesca. Ecco, la parte di Sergio Romano in questo libro è molto una guida alla ricerca storica, alla ricerca anche di molte dimensioni di Berlino, di molti luoghi che vanno scoperti, che vanno appunto visti, andandoli a cercare e cercando di capire anche che cosa c'è dietro a questi luoghi un po' nascosti adesso, ma che sono ricchi di storia. Ecco, per concludere, Beda Romano, dato che abbiamo parlato di Berlino capitale, di questo libro, come di una guida, un consiglio per chi vuole andare a Berlino, magari per la prima volta, scoprire questa città, quali, non dico di fare un elenco di luoghi, ma quali priorità, che cosa non perdere, una o due posti da non perdere, da cercare di scoprire anche attraverso le pagine di questo libro. Beda Romano. Ma io ogni volta che vado a Berlino mi fermo al Deutsches Historisches Museum, che è un museo che è stato ricostruito sulla Unter den Linden, quindi questo lungo viale che attraversa il centro della città, il quartiere di Mitte. È stato costruito il museo all'interno di una ex armeria, ed è particolarmente interessante al di là delle mostre che vi possono essere, delle esposizioni, ma vi è una mostra permanente sulla storia della Germania, ed è una mostra incredibile, è una mostra incredibile perché racconta questo paese criticato da molti, che fa paura a molti europei per il ruolo che ha avuto nel corso del Novecento, ma è una mostra abbastanza affascinante perché si scoprono delle particolarità del paese nel corso degli ultimi secoli, e quindi è una mostra che serve non solo a capire la Germania, ma evidentemente a capire il ruolo di Berlino nella storia tedesca ed europea. Grazie, grazie a Beda Romano anche per questo consiglio per un viaggio a Berlino che merita di essere fatto per scoprire la nostra realtà europea, in fondo anche la nostra cultura e la nostra storia. Beda Romano ha scritto insieme al padre Sergio Romano il libro Berlino Capitale, storie e luoghi di una città europea, edito dal Mulino, sono 220 pagine per 15 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, grazie anche a Gianmarco Ferronato in regia, Luca Cremonese in redazione, l'appuntamento con Economia in Pagina per sabato prossimo.